Radio 24 Reportage. I giorni dei crolli di Pompei, in viaggio tra le rovine, vecchie e nuove, dell'antica urbe. Di Raffaella Calandra. Das ist natürlich besonders traurig. Das sollte in der Tat nicht passieren, nicht? I feel very sad. Bloccati dalle transenne, i turisti di Pompei si interrogano, increduli. Il corpo della Schola Armaturarum giace lì, coperto da teli bianchi, come la salma di un morto ammazzato per strada. Sbarre d'acciaio separano le antiche rovine sopravvissute a 2000 anni di eruzioni, guerre e saccheggi dalle macerie di oggi venute giù sotto il peso di incuria, burocrazia e polemiche. La Schola Armaturarum nel 2006 risultava in grado di conservazione mediocre, cioè è il terzo livello di rischio. Quando io sono andato via nel 2009 non era in programma, per scarsità finanziaria, interventi in quella zona. Guzzo è stato l'ultimo sovrintendente vero di Pompei, prima dell'era del commissario e dei sovrintendenti ad interim con mandati di 6 mesi, e a lui si deve l'ultimo monitoraggio sui rischi dell'antica urbe. Dal 1997, quando si è iniziata questa recensione del pericolo e del rischio, delle gerarchie di rischio, si sono programmati interventi in base a queste priorità di pericolo. Tant'è vero che dal 97 al 2009 abbiamo riportato in sicurezza più del doppio dell'area che era in sicurezza nel 97. Nel 2009 arrivavamo al 31%. Cioè Pompei avrebbe bisogno di un monitoraggio aggiornato? Beh, il monitoraggio per definizione è continuo, dovrebbe essere. E di fatto invece è fermo alla sua mappatura? Appunto, ma il crollo di gennaio del muro della casa di Cassiamanti doveva essere un campanello d'allarme. Quello della Scuola dei Gladiatori è solo l'ultimo crollo di Pompei. Dai pezzi caduti nelle case di Menandro e del Labirinto anni fa, al cedimento del peristilio nella Domus di Paquio Proculo, fino ai crolli recenti. Un muro di 10 metri è caduto nel vicolo di Efigenia, annotava ad esempio il 3 novembre il custode della Insula 4. Siamo poco lontani dalla scuola venuta giù, sempre sulla centrale via dell'Abbondanza, dove anche la casa di Polibio mostra un cedimento nella trave. È un viaggio nei giorni tristi di Pompei, il registro dei custodi che Radio 24 ha consultato, un elenco di segnalazioni che aumenta ancor di più l'amarezza di chi a Pompei sta dedicando la propria vita di studio, come Carmela Capaldi, docente di archeologia greco-romana alla Federico II. Davanti alle transenne della scuola e volgendo lo sguardo anche al pannello di una delle ultime iniziative qui organizzate, commenta: bisogna capire che Pompei non è Disneyland. Siamo appunto lungo Via dell'Abbondanza, che è una delle vie centrali di Pompei, la via dove affacciano alcune delle case anche più importanti e dove anche è crollata la Scuola dei Gladiatori, dove ci sono stati anche una serie di altri problemi per altre case. Ecco, a voi tecnici che quotidianamente lavorate su Pompei, innanzitutto, questo crollo era un crollo annunciato? Non era un crollo annunciato, ma era una situazione prevedibile, in una situazione di generale delicatezza della gestione dell'area archeologica di Pompei e in generale delle aree archeologiche della Campania e di tutto il territorio nazionale, e se vogliamo in termini più estesi del patrimonio dei beni culturali in generale. Per quanto riguarda Pompei, tra l'altro, era una situazione già nota, alla quale si è in questi 10 anni potuto provvedere soltanto con mezzi ridotti rispetto a quelle che erano le possibilità e le disponibilità di fondi, e anche quella che è la trafila abbastanza articolata delle procedure e di appalto e quindi di esecuzione dei lavori. Ed qui siamo in prossimità delle terme, delle cosiddette terme stabiane, quindi ci avviciniamo. E qual è il loro stato di salute in questo momento? Se verifichiamo degli stati delle lesioni, quindi che sono chiaramente degli indicatori in uno stato di fragilità della struttura. Il tufo, qui poi parliamo di tufo giallo, che è un tipo di materiale molto fragile e che quindi tende anche difficile, ecco, è anche difficile intervenire sicuramente, però sono anche pezzi, luoghi particolarmente diciamo così simbolici, preziosi. preziosi, unici per di più anche appunto in questa strada centrale. Che sono tra l'altro gli indicatori appunto di un assetto urbanistico più antico di quella fase a cui normalmente si fa riferimento, cioè quella della città divenuta ormai municipio romano e quindi poi colonia imperiale. È chiaro che in facciata si vede che prima o poi quella parte di quel blocco verrà via, si spaccherà e cadrà. Girandoci su noi stessi, nella Domus Cornelia vedo in questo momento una fitta serie di puntellature per reggere delle mura. Da quanto tempo sono lì? Perché hanno l'aria di essere lì da numerosi anni. Certo, devo dire che io a mia memoria me le ricordo sempre lì. Quindi vediamo tutte queste puntelle di acciaio e di ferro ormai praticamente arrugginito che tengono insieme muri ma anche un lungo colonnato, architravi anche, sì. Voglio dire, è una casa importante. Le colonne nei peristili che fanno un po' il fiore all'occhiello, no? Delle case pompeiane, perché sono poi le testimonianze che ci consentono di ricostruire la vita quotidiana del passato. E quindi è vero che il famoso rosso pompeiano è a rischio? Direi non soltanto il rosso pompeiano, paradossalmente forse un po' meno, perché il rosso pompeiano per la sua composizione chimica è un tipo di colore che tiene di più, mentre invece forse sono a rischio gli altri colori, poiché noi usiamo la pittura pompeiana come indicatore di una particolare indicatore cronologico della momenti della produzione della pittura romana in generale. Ci saranno altri crolli, ha preannunciato il ministro dei beni culturali Sandro Bondi, parole che su questi decumani sembrano l'annuncio della scoperta di nuovi tumori maligni. Ora operai e tagliaerbe sono al lavoro e il sovrintendente ad interim Jeanette Papadopoulos si difende. Le segnalazioni vengono immediatamente controllate, quindi là dove c'è veramente una situazione di pericolo si interviene. Lungo via Nolana, profonde crepe verticali sono gli SOS lanciati anche da domus celebri come la Casa del Fauno. Vegetazione fuori controllo e ponteggi ormai arrugginiti insidiano particolarmente questa che è la zona più antica della vecchia Pompei. Dall'altra parte, vicino a via Stabiana, tubi e calcinacci sono i segni del grande cantiere del Teatro Grande, voluto dal commissario, costato milioni di euro e contestato dagli esperti come il professor Carlo Gasparri. I nuovi commissari che si sono succeduti hanno messo in essere a volte delle iniziative del tutto discutibili. Il primo commissario straordinario, per esempio, che arrivò a Pompei, utilizzò fondi della sovrintendenza per finanziare l'impianto di illuminazione della strada perimetrale, quindi una zona di competenza comunale. Paradossalmente i guadagni di Pompei sono stati un boomerang. Sì, un boomerang nel senso che hanno innescato questa idea di ricavare guadagno dallo scavo attraverso l'organizzazione di eventi, di manifestazioni, di spettacoli, eccetera. Nel caso di Pompei questo ha determinato una disastrosa ricostruzione del Teatro Grande di Pompei che ha stravolto i progetti iniziali della sovrintendenza. Quindi la logica del grande evento è andata a scapito della manutenzione quotidiana. È questo concetto della valorizzazione che è perverso, è distruttivo. Quindi anche i ministeri usano male i soldi, gestiscono male i soldi? Usano sempre, guardi, costantemente per operazioni che abbiano delle risonanze mediatiche. Il sole cala sul peristilio che corre lungo il vecchio foro. Pompei aspetta l'alba di un nuovo giorno migliore. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.